Ed eccoci di nuovo in diretta e come annunciato abbiamo qui il compagno dalla Colombia. Ci senti? Pronto? Pronto? Ci senti? Ci senti? Pronto? Pronto, pronto? Io ti sento. Eccoci finalmente, risolti i soliti problemi tecnici. Siamo di nuovo in diretta con il nostro compagno, il nostro uomo a Bogotà e stavamo parlando prima, oltre a annunciare la prossima proiezione del tuo documentario sulla diga del Kimbo dell'Enel che vuole costruire nel dipartimento del Huila, che verrà proiettato mercoledì alle 22 al Cinema Aquila al Pigneto, dicevamo di questa grossa assemblea di organizzazioni sociali colombiane e latinoamericane che si è tenuta la settimana scorsa, due settimane fa a Bogotà, il congresso per la pace, e tu mi hai detto che ci sei stato. Facci un po' un panorama di quello che è successo, quello che si è detto e anche come si stanno vivendo in Colombia questi negoziati, questi colloqui di pace. Sì, allora il congresso de los Pueblos si è riunito appunto la scorsa settimana come congresso per la pace, precisamente per costruire con l'idea di far convogliare tutte le organizzazioni sociali, contadine, sindacali, indigene, afrocolombiane, per costruire proposte per i negoziati di pace che sono in questo momento l'argomento fondamentale. Hanno partecipato circa 20.000 persone che si sono riunite nel corso di 3 giorni dentro la città universitaria, sotto una pioggia impietosa che ha creato un po' di problemi organizzativi, fondamentalmente le proposte che sono uscite dal congresso sono state intorno alla redistribuzione della terra, all'opposizione rispetto alla politica mineraria e energetica del governo di Santos e al fatto che praticamente tutto il territorio colombiano lo stanno cedendo in mano di migliaia di multinazionali che stanno arrivando in Colombia come bestie fameliche per estrarre oro, petrolio, carbone, costruire impianti idroelettrici e coltivare palma africana, la palma da cui si fa l'olio di palma e l'etilene combustibile, canna da zucchero, insomma questa è stata la grande opposizione. Ci sono state il congresso ha convogliato, cioè una cosa molto molto interessante, che c'erano un sacco di persone e comunità venute fondamentalmente dal nord di Santander, il Catatumbo, dal sud della Colombia, c'erano gli indigeni riuniti nella FIN, del sud del Bolivar, del Sotto, le comunità afrocolombiane, insomma era molto molto interessante vedere questa partecipazione massiva di persone che sono le persone che non stanno normalmente, non sono i protagonisti dell'agenda mediatica dei negoziati di pace, sono contadini, sono i settori più bassi della popolazione che appunto con forza chiedevano e pretendevano di essere inclusi nella costruzione della Colombia che dovrebbe scaturire dal processo di pace. E senti una cosa. Dire che ci sono... Sì. Ma come, sì, dico, come è stato recepito invece proprio dai protagonisti di queste trattative di pace questo congresso, questa presa di parola da parte della società politica, delle organizzazioni sociali colombiane? Allora, in realtà c'era un momento in particolare di dialogo. Che era il lunedì, di dialogo con altri settori protagonisti dei processi di pace. In particolare erano stati invitati a partecipare i gruppi insorti l'LN, le FARC e le PL, che è una minuscola frazione che opera nel nord di Santander. Era stato invitato il governo, ma il governo non ha partecipato, non ha accettato l'invito. Da parte dei gruppi insorti, diciamo, ci sono arrivate due lettere che più che una vera partecipazione, diciamo, sono stati un saluto educato, almeno per quanto posso pensare io, che sono state da parte delle FARC, da parte delle PL, e un video registrato da parte dell'LN. In realtà non è stata posta molta attenzione mediatica a questo congresso, anche perché la grande attenzione era stata posta il mese scorso alla marcia del 9 di aprile, che era una marcia di un altro settore che comunque persegue la pace e cerca di essere protagonista, della marcia patriottica, del settore, diciamo, storicamente più vicino al Partito Comunista. In realtà è un panorama molto frammentato questo in cui si arriva al processo di pace. La sinistra è profondamente frammentata tra Congresso de los Pueblos, durante il quale oltretutto sono state manifestate anche delle divisioni interne piuttosto forti, da una parte. Dall'altra parte c'è la marcia patriottica che tiene la sua bandiera fondamentale nella cessione delle zone di riserva contadina, che è il punto dei negoziati dell'Havana, e nelle garanzie di partecipazione politica. La marcia patriottica, diciamo, raccoglie quella che fu l'esperienza dell'Unione Patriottica del 1980, che era questa formazione che avrebbe dovuto partecipare, permettere la partecipazione pacifica e legale della sinistra alla competenza elettorale, che fu massacrata. E quindi, diciamo, la marcia patriottica in questo momento chiede precisamente garanzie per poter esercitare il diritto di partecipazione politica. Dall'altra parte anche la destra è profondamente divisa. C'è il governo di Santos che ha scommesso e sta scommettendo molto molto forte sulla pace, sul tema della pace, anche se ovviamente con la sua visione. Cioè, la sua visione è presentarsi al mondo come il governo che ha messo fine a 60 anni di conflitto in Colombia, e in questo modo garantire gli accordi bilaterali tra Colombia e il resto dei paesi, per permettere precisamente l'investimento straniero, l'arrivo di multinazionali e la cessione del territorio nazionale alle multinazionali. Ricordiamo che Santos dall'altra parte sì? Ricordiamo che Santos è alla presidenza della Colombia da 2 anni, che è seguito alla presidenza di Álvaro Uribe, che è durata 8 anni, di cui è stato ministro della difesa. Tu accennavi a una differenza tra loro due, tra i settori che rappresentano. Esattamente, anche se è curioso, perché Santos precisamente fu ministro della difesa durante l'epoca di Uribe, e fu un ministro della difesa assolutamente guerrafondaio, e oggi vuole o pretende dimostrarsi come il presidente pacifista della Colombia, cosa che ovviamente uno entra in contraddizione con quello che ha fatto fino a 2 anni fa. Ricordiamo che Santos, come ministro della difesa, fu il responsabile di una crisi regionale nel momento in cui bombardò Ecuador, autorizzò il bombardamento di Ecuador, e questo portò a una crisi che poi si scatenava una guerra, insomma pazzo scatenato. Dall'altra, però, oggi appare come il presidente della pace, anche se appunto lui vuole pacificare la Colombia, far scordare tutte le violazioni dei diritti umani che sono successe durante gli 8 anni anteriori, e aprire Colombia a all'investimento straniero. Dall'altra parte c'è Uribe, che invece è la destra uribista, che si stanno opponendo fortemente al processo di pace, incluso con qualche settimana fa un sabotaggio esplicito di Uribe, che attraverso i suoi contatti con le forze armate ha fatto conoscere l'ubicazione di un punto di incontro dei negoziatori della guerriglia, mettendo a rischio la vita dei negoziatori e a rischio tutto il processo di pace, perché ovviamente i negoziatori per andare a Cuba devono avere dei lasciapassare e devono avere la sicurezza di non essere uccisi. E loro si stanno opponendo fortemente. Diciamo, quello che rappresenta Uribe è l'elite latifondista del paese e l'elite militarista. Non bisogna dimenticare che comunque l'esercito colombiano negli ultimi 8 anni è passato da circa 100.000 effettivi a 460.000 effettivi, e tutto questo potere in mano ai militari, i militari ovviamente non vogliono perderlo, certo. E Uribe rappresenta questa parte dei militari, quindi diciamo questo è un pochino il panorama. Dalla sinistra divisa tra Congresso del Popolo e Marcia Patriottica, la destra divisa tra destra santista del presidente Santos e destra uribista. Questo è grosso modo il panorama in questo momento. Un attimo, Marzoli, scusa un attimo, ci abbiamo i soliti problemi tecnici. No. Vai, vediamo se. E un'altra domanda invece, che appunto leggendo la dichiarazione finale del Congresso della Pace vediamo che viene molto posto l'accento su come questo processo debba essere condotto in un'ottica non neoliberista, quindi ti volevo chiedere quali sono le contraddizioni che presenterebbe eventualmente, se ne presenta, questo processo di pace se fosse condotto esclusivamente dalla destra neoliberista di Santos. Ma le contraddizioni fondamentali sono rispetto all'uso del campo, quindi la sinistra chiede una riforma agraria, diciamo le sinistre chiedono riforme agrarie differenti, abbastanza differenti, però tutti chiedono delle riforme agrarie, ovvero una ridistribuzione della terra ai contadini che sono senza terra, un esproprio della terra dei latifondisti, cioè la maggior parte della terra in Colombia viene usata per l'allevamento estensivo. Estensivo vuol dire che praticamente per occupare la terra i latifondisti, che sono i padroni, l'elite economica del paese, i padroni del paramilitarismo, più o meno hanno riempito di allevamento bovino con una media di una o due vacche per ettaro, che ovviamente è uno spreco allucinante di terra, ma e quindi loro la sinistra chiede che venga ridistribuita, tolta questa terra quando non è usata in modo appropriato e ridistribuita. Per quanto riguarda i progetti minerari energetici, chiedono appunto che vengano revocate, che vengano congelate le concessioni alle imprese multinazionali, concessioni di sfruttamento di oro, di petrolio, che vengano nazionalizzate dei campi petroliferi, come per esempio quello di Pacific Rubiales, che è un'impresa canadese, e diciamo e quella è una delle differenze appunto fondamentali. Colombia in questo momento è ostaggio delle multinazionali, cioè il governo Santos ha concesso a multinazionali estrattive intorno a 20 milioni di ettari nei prossimi anni, per cui questo è un'opposizione fondamentale, un modello economico che si oppone fondamentalmente. Un po' la grande contraddizione di questa il punto un po' di discussione è che il Congresso della Pace, i negoziati di pace non ci si può aspettare dai negoziati di pace una rivoluzione socialista. Perché? Perché le guerriglie si seguono, siedono al tavolo delle negoziati di pace fondamentalmente come sconfitte. Sì. Quindi è un po', diciamo, questa, cioè, c'è un po' di contraddizione, perché per esempio il congresso dello Spoilers accusa Marcia da Fiottica di essere troppo pragmatico e poco rivoluzionario nelle sue richieste al tavolo della Havana. Marcia Patriottica accusa il congresso dello Spoilers di essere eccessivamente idealista, diciamo, nelle rivendicazioni che fa i tavoli della Havana. E questa è una situazione un po' complicata, perché in questa situazione, dove comunque la sinistra è una minoranza nel paese, cioè che questa si divida in 3, 4, 5 pezzi diversi, ovviamente non è una situazione auspicabile. Senti, hai parlato delle multinazionali, abbiamo già citato la proiezione del tuo documentario sulla diga Enel del Chimbo mercoledì prossimo al Cine Aquila, al Pigneto, alle 22. Qual è ora la situazione nel Huila, la situazione della lotta contro la situazione del Huila? La proiezione del documentario sarà dopodomani nell'ambito del Festival delle Terre, che inizia precisamente domani. Il Festival delle Terre è un festival dove verranno proiettati e presentati un sacco di documentari inerenti a conflitti che hanno al centro, diciamo, la terra. Rispetto alla situazione del Huila, di cui già abbiamo parlato abbondantemente nella radio, la situazione continua a essere super dinamica. In questo momento, in questi giorni precisamente, un rappresentante di Assogimbo sta facendo dei giri in Italia, più per l'Italia del Nord, credo tra domani e dopodomani a Trento e Bolzano. Loro hanno, il mese scorso, hanno occupato circa 150 ettari. I contadini resistenti contro la diga hanno occupato circa 150 ettari delle terre che teoricamente dovranno essere inondate, e in questo modo è la nuova strategia di resistenza, è precisamente quella di entrare nel territorio che dovrà essere sommerso dal lago della diga e occuparlo, precisamente nella proiezione di quello che loro sempre hanno chiesto, che non venga costruita la diga, ma che venga costituita una zona di riserva contadina, ecologica, agroalimentare, insomma, e la terra venga ridistribuita. Un altro fatto super importante è che hanno fatto una campagna il mese scorso, sono stati protagonisti di una campagna molto forte, perché ci sono state delle elezioni regionali della regione Huila, e invece di appoggiare un candidato che gli avrebbe promesso non so che cosa, hanno deciso a Assogimbo di promuovere il voto in bianco. E questa cosa del voto in bianco è stata un esito senza precedenti, perché praticamente il nuovo governatore del Huila è stato eletto con qualcosa più 120-130 mila voti, e il voto in bianco è arrivato al secondo posto, tra virgolette, con 78 mila voti. Vuol dire sono riusciti a rappresentare nelle elezioni, senza affidarsi a un candidato o alla politicheria del sistema elettorale, sono riusciti comunque a affermarsi e a rappresentarsi come opposizione alla politica che sta facendo il Dipartimento del Chimbo e del Huila, rispetto all'accesso delle multinazionali. C'è infatti da ricordare che il problema è che la represa del Chimbo non è l'unico problema del Dipartimento del Huila. È prevista la costruzione di altre 9 dighe e l'entrata di varie multinazionali per l'estrazione di petrolio, per cui siamo in piede luce. Bene, quindi la sinistra sarà anche debole in Colombia, ma i progetti della destra sembrano mobilitare una forte opposizione in ogni caso in tutto il paese. Esattamente. Bene, noi ti ringraziamo, non so se ci vuoi, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ci salutiamo e ci risentiamo, magari ci rivediamo presto. Va bene, sicuramente. Dai, ciao, a presto. Un abbraccio. Ciao, ciao, a presto. Ciao, ciao.